L'intervista di oggi di Festivals Backpack è con noi negli studi di Radio Città Fujiko un artista che a noi piace tantissimo e che tra pochissimi giorni peraltro sarà qui a Bologna. Sto parlando di Meg. Intanto Meg, benvenuta a Radio Città Fujiko. Ehi, ciao, grazie mille. Come stai, Meg? Sto bene, grazie, resisto. Benissimo, resisto è un ottimo termine anche per questa settimana, no? Che per noi è anche dedicata proprio a questi temi. Ti chiamo per parlare un po' della tappa che ci sarà tra pochissimi giorni qua a Bologna, perché sarà l'ultima tappa di questo primo tour del tuo ultimo album Vesuvia, che non cade a caso, infatti è in occasione del Lady Day. Ti chiederei se hai voglia di raccontarci appunto il 29 aprile cosa potremo aspettarci da questo live. Ma sono stata molto lusingata di essere invitata in questa manifestazione, è appunto l'ultima tappa di questo progetto, secondo me molto molto forte, che aiuta le donne in difficoltà, in particolare donne che hanno subito violenza. A me piace sempre riuscire con la musica a fare qualcosa di concreto, quindi in questo caso sono stata estremamente felice di sapere che questo concerto servirà a creare una borsa di lavoro. Che cos'è una borsa di lavoro? È un aiuto economico concreto per donne che hanno subito violenza e che hanno la priorità di ricrearsi una vita serena e autonoma, e queste borse di lavoro permettono di creare percorsi personalizzati e remunerati di reinserimento lavorativo per donne seguite dai servizi sociali. E noi sappiamo benissimo che l'accoglienza non è un traguardo, ma è solo un punto di partenza, no? Cioè il lavoro è il primo passo indispensabile per riprendere in mano la propria vita, per riacquistare fiducia in se stesse e tornare ad avere un ruolo attivo nella comunità. Quindi sono estremamente felice che il mio concerto serva per la creazione di borse di lavoro. Sarà un concerto in cui spero che si crei un sistema di vasi comunicanti tra noi sul palco e il pubblico. Queste ultime date sono state estremamente intense per me, vedere e sentire la gente che viene ai miei concerti felice anche solo per un'ora e mezza, per la durata del concerto, per me è una soddisfazione grandissima. Se il mio pubblico è felice, io sono felice. Mi hai praticamente anche già risposto alla domanda che volevo farti dopo, cioè la musica come può sensibilizzare rispetto a certi temi, perché effettivamente sì, molto spesso la musica avvicina parlando temi molto importanti, però in questo caso c'è proprio una parte più pragmatica, no? Una parte concreta che si concretizzerà appunto in questa borsa lavoro. Immagino che poi tutte le informazioni saranno date quel giorno, giusto, quella giornata? Sì, sicuramente ci sarà una informazione più approfondita della cosa. Quando le ragazze mi hanno inviato un comunicato, ho trovato, a parte che Lady Day è il nome che venne dato a Billie Holiday da Lester Young, un altro grande jazzista. Per me Billie è una delle mie cantanti preferite in assoluto, fin da quando ero bambina, perché mio padre l'ascoltava, di grande ispirazione per me, grande forza, grande coraggio. E c'era una frase in questo comunicato di Lady Day che mi aveva ispirato anche per una cosa che ho scritto in un pezzo del disco che è Arco e Frecce, ed è una frase di Virginia Woolf che dice: non c'è cancello, nessuna serratura, nessun chiavistello che tu possa mettere sulla libertà della mia mente. L'ho trovata fortissima, ed è un po' anche il senso di quello che faccio quando scrivo, cioè per me scrivere è una vera e propria terapia per risolvere una serie di problematiche che magari sto attraversando, ma anche un modo per resistere, come dicevamo prima, è quello che so fare, insomma, e quindi cerco di farlo andando in questa direzione, cioè cercando di ripetere a me stessa che la mia mente viaggia veloce e nessuno la può fermare. Spero che queste parole possano servire di ispirazione a chiunque abbia parole da spendere per cercare di cambiare le cose e avere un mondo migliore. Io ci credo ancora in questo. Ma io penso che i concerti oggi siano uno dei rari momenti in cui ancora riusciamo a trovare spazi per riunirci, ritrovarci, sentirci meno soli in questi tempi così bui. Parlavi appunto del fatto di scrivere come modo anche di elaborare qualcosa di tuo, no? Un tuo momento particolare. Per quanto riguarda Vesuvia, che appunto è l'ultimo album uscito qualche mese fa, a cui è seguito appunto il tour, la storia che è entrata all'interno di queste canzoni o il messaggio qual è? Io scrivo sempre parlando a me stessa, cioè non riesco a scrivere pensando di mandare messaggi, cioè quella è una cosa che viene in un secondo momento quando le canzoni diventano di tutti, no? Non sono più solo mie, ma le ascoltano tutti. E posso dirti questo, cioè che sto ricevendo tantissimi feedback da persone che hanno ascoltato Vesuvia, bellissimi, persone che mi scrivono che magari una determinata canzone, che ne so, Non ti nascondere, oppure Aquila o Arco e frecce, li hanno ispirati, li hanno aiutati o aiutate a superare un momento difficile, a prendere decisioni complicate, ad affrontare un impasse e a riuscire a superarlo, a farli sentire meno soli. Quando mi arrivano queste cose scritte, perché poi il lato positivo dei social è questo, cioè che accorciano le distanze e riesci a comunicare con i tuoi ascoltatori in maniera immediata. Quindi quando leggo questi messaggi sono felice, mi sento di aver raggiunto il mio obiettivo, però ripeto, non sono messaggi che mi sento di dare come una maestra, non so come dire, cioè sono sempre dei promemoria che io scrivo primis per me stessa, ecco. E che poi eventualmente vengono raccolti, no? Sono terreno poi anche per altre persone che li ascoltano, è giusto? È il potere della musica. Anch'io da ragazzina, quando ho cominciato ad ascoltare la musica, mi sono cominciato ad addentrare nel meraviglioso mondo infinito della musica, sono stata aiutata da tante canzoni, da tanti artisti che probabilmente a loro volta scrivevano nella loro cameretta le loro canzoni e sono arrivate poi come una sorta di... Hanno colpito il bersaglio, insomma. Esatto, e mi hanno aiutato in determinate situazioni. Riguardo invece al live, è un live molto particolare, infatti chi l'ha già seguito, perché ricordiamo che le date del live sono state tante e che quella a Bologna il 29 aprile sarà quella che chiude questo primo ciclo, se non sbaglio. È un live molto particolare in cui sei stata definita più che un artista, una performer. Sul palco cosa succede? Ad esempio, c'è anche una sorta di flusso di coscienza, queste canzoni che arrivano una dopo l'altra senza interruzione, giusto? Sì, l'idea era proprio quella di riprodurre sul palco questo flusso magmatico di Vesuvia, l'idea dell'eruzione, no, della lava creativa riproposta sul palco, ce la siamo immaginata proprio come un flusso continuo senza interruzioni. Infatti nel live ci saranno pochissime, 2 o 3 interruzioni, ma le canzoni sono una dietro l'altra e ci siamo immaginati e abbiamo creato questo tavolo di lavoro che sta al centro del palco, sul quale sono disseminati tutti i nostri strumenti. Sul palco siamo io e Marco Fugazza, che con mixer, multi effetti, sintetizzatori, dabbiamo, e cioè dabbare significa in qualche modo creare ogni volta che tu suoni una canzone diversa, cioè una versione diversa di quella canzone. È una cosa che ho imparato negli anni 90 quando ho cominciato a lavorare. Quando tu hai un mixer e dei molti effetti e puoi lavorare sulla canzone in tempo reale live, la canzone diventa una versione diversa da quella che è stata incisa sul disco. E questo secondo me è un po' il senso di Vesuvia, cioè questo flusso continuo musicale che in qualche modo coinvolge di più, no, lo spettatore, e che poi la forza anche dei concerti, del live è proprio questa, coinvolgere il pubblico proponendo delle canzoni che sul disco sono in un modo, ma live sono ad hoc per quella situazione. Io ti ringrazio tantissimo, Meg. Ricordiamo che il tuo live, il vostro live, perché appunto sul palco non sarai da sola, è il 29 di aprile al Lady Day, che abbiamo detto insomma a inizio intervista di cosa si tratta, ma sarà poi spiegato bene anche nell'articolo che accompagnerà questa intervista. Io ti chiederei se prima di salutarci hai voglia di scegliere una canzone da farci ascoltare e se vuoi se hai un messaggio per le ascoltatrici e gli ascoltatori di Radio Città Fujiko. Con piacere. Allora, io sceglierei Aquila, che per l'occasione mi sembra il pezzo pezzo giusto, è un pezzo che ho scritto pensando alla vitale importanza che hanno per me le mie amiche. Le figure femminili nella mia vita sono state fondamentali, mi hanno dato supporto e forza in momenti difficili, anche in momenti felici. Io ho svariate amiche che considero proprio mie sorelle, abbiamo tante cose in comune ma anche tante cose invece che ci differenziano, e forse questo pezzo è nato anche proprio dall'ammirazione di tratti diversi, no? Che io non ho di queste mie amiche, e che proprio perché diverse da me mi ispirano costantemente. E in questo pezzo, non a caso, ho voluto invitare due ospiti eccelse della musica italiana, che sono Elisa ed Emma, appunto tra di loro così diverse, no? E però insomma noi tre insieme a cantare questo pezzo è come nella mia testa, nel mio viaggio, nel mio trip mentale che mi sono fatta, era l'idea di avere queste tre entità così diverse fra di loro, che però creano una sorta di triangolo magico di tre streghe che si riuniscono intorno a un fuoco per ridere, piangere, per abbracciarsi, ballare e dichiararsi il loro amore, il loro affetto reciproco. Perfetto, allora io non vedo l'ora di ascoltare Aquila insieme alle nostre ascoltatrici e ai nostri ascoltatori. Io ti ringrazio tantissimo per essere stata qua con noi, per aver chiacchierato con Grazie noi, averci spiegato tutto. Grazie, ciao, buona giornata Meg.